بتعصى في الوطن من اجل دمك اخي ارقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمه تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومه على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لن تختفي اخي لا يتخلد اسمك في غزتي اخي صاحب العرض وغربي فلسطين اتبنتك وصل بسفن حرية مغطى برايت بعودتك مكون من جسد وتزوق طبقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المادة ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب الا برجوع الارض ارضي تناديكم مشيت على الايادي الايادي مساعد ما حم الموت قلبه ضابط بالصوت رافض السكوت وصاحب عين الصوت ها اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف اضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامه بغفله تمل قدر بلحظه خرجت دموع بلحظه الشموع تتخطى الوداع هو الابقى السلام والحب رمز إيماني بالحق رمز إرادة الشعب أحكي في توريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر سيف توريو أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة أحكي في توريو إحنا إلا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد أنت فلسطيني فيك أنت فلسطيني وأنا أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض e siamo in onda con Radio Cufia, 19:33 minuti primi, scusate gli inconvenienti tecnici ma qua purtroppo abbiamo grandi apparecchiature ma piccole menti per saperle usare. Siamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento analisi dalla Palestina occupata e sulla Palestina occupata. Ricordiamo immediatamente i contatti della radio, cioè www.radiodefault.it per trovare il nostro sito, il nostro contatto Skype è radio.default, aggiungeteci e potete fare domande in diretta, considerazioni, interventi o anche solo o miseri insulti. Poi c'è la nostra pagina Facebook Radio Default. Se volete sentirci live potete venire a trovarci in quel di via di Guidobaldi 56 in Genzano di Roma, dove troverete un frigo fornito di birre e potrete interagire direttamente con la nostra redazione. E quindi andiamo a fare il nostro tanto promesso aggiornamento sugli accordi di Oslo, ne parleremo meglio in futuro, ma oggi andiamo a fare qualche considerazione iniziale, però iniziamo con una notizia di cronaca. Infatti, 3 ore fa, secondo l'agenzia Ma'an, Israele ha colpito 2 bersagli nella parte settentrionale della striscia di Gaza. E secondo una portavoce dell'esercito, sono state colpite due piattaforme nascoste per il lancio di razzi. Diciamo che non ci sono feriti o danni alle strutture, e questa aggressione casca a fagiolo proprio nell'anniversario dell'aggressione chiamata pilastro di difesa, aggressione che avvenne appunto nel 14 dicembre 2012, esattamente un anno fa, in cui vennero uccise oltre 170 persone e vennero ferite oltre un migliaio. E Amnesty International dichiara che decine di migliaia di abitanti della striscia sono scappati dalle loro case durante il conflitto, mentre centinaia sono ancora rimasti senza casa, perché appunto a causa delle distruzioni portate da questa vile aggressione. E noi ci sentiamo fra qualche minuto, riordiniamo un attimo le idee e mandiamo un folk rap, potremmo dire. Questi sono i Dem e questa è Dabka on the Moon. شي ما سوى البلاد برا لقوا الهوى شط من بالرشوة بتقديم القهوة للحل من ان ندور للترويض وهيك بالحضيض احنا بنتلوى في قرب العالم هذا فوتنا كل يرسم حوالينا واحنا بنفس النقطة روس اموال في وبنزين في عنا بطلع السماء واسأل شو ناقصنا E rieccoci di nuovo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento analisi dalla Palestina occupata e sulla Palestina occupata. Abbiamo appena sentito i Dem che cantavano Dabka on the Moon e andiamo a parlare quindi degli accordi di Oslo di cui ricade proprio è ricaduto proprio lo scorso settembre il ventennale. Gli accordi di Oslo diciamo che sono stati, vengono chiamati in più modi, da una parte accordi di pace, dall'altra sono stati definiti una seconda catastrofe del popolo palestinese, insomma hanno spaccato profondamente tutto il movimento nazionale, ma diciamo che non si può, non possiamo considerarli, debbono essere considerati come un momento epocale nella storia del popolo palestinese e della lotta di liberazione del popolo palestinese. Innanzitutto questi accordi vengono siglati nel 93. Nel 93 vi è appunto la stretta di mano tra Isaac Rabin e Yasser Arafat, all'epoca presidente dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, stretta di mano mediata da presidente statunitense Bill Clinton. Innanzitutto possiamo la discussione su questi accordi citando una frase di Shimon Peres, che è l'attuale presidente dell'entità sionista e un laburista e un acerrimo sostenitore della politica di occupazione e delle politiche di massacro che vengono perpetuate dal palestinese. Shimon Peres ha detto che all'epoca, ricordiamoci, era il ministro degli esteri israeliano, disse che noi non siamo cambiati, riferendosi ovviamente agli israeliani, è l'OLP che è cambiato. Difatti, questo accordo che venne siglato ad Oslo era un accordo che pose un grosso, cambiò il DNA di quella che era l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e il movimento tutto di liberazione palestinese, perché andava a creare un accordo transitorio, e ribadiamo transitorio, anche se ormai dopo 20 anni si può quasi definire come definitivo, un accordo transitorio affinché si creasse uno Stato palestinese in quella che viene definita nei confini della cosiddetta linea verde, cioè i territori che erano di palestinesi prima della guerra del 1967, quindi West Bank e Striscia di Gaza, e questo Stato palestinese che vivesse a fianco a uno Stato israeliano connaturato come uno Stato ebraico. E difatti venne anche modificata la carta, lo statuto dell'OLP per inserire il riconoscimento dello Stato ebraico e non israeliano, quindi uno Stato che va a riconoscere Israele come casa di tutti coloro che nel mondo professano la religione ebraica, quei 60 milioni di ebrei che sono in giro per il mondo. E questo in teoria doveva essere appunto un accordo transitorio che doveva avere dei passaggi successivi che noi ora non andiamo ad analizzare perché non siamo dei diplomatici, comunque deve essere appunto un accordo transitorio che avrebbe dovuto procedere per graduali step fino appunto all'instaurazione di queste due entità. Qual è il problema? Che il problema era che arrivavano subito le concessioni da parte dei palestinesi, ma nessuna concessione doveva essere data dagli israeliani, che o meglio l'unica, cioè la liberazione dei prigionieri politici, non è stata rispettata, tant'è che ancora oggi nei colloqui di pace che si stanno svolgendo proprio in questi giorni, o meglio che si stavano svolgendo perché a quanto pare sono falliti proprio oggi, si sta parlando oggi appunto di rilascio di quei prigionieri che sono stati catturati prima di questi accordi. Ma come si è arrivati a questi accordi? Diciamo che l'OLP ha avuto dei problemi diplomatici. Ricordiamoci che nel 93 si era appena assistito alla caduta dell'Unione Sovietica, che era il grosso sostegno diplomatico, anche se abbastanza interessato, del popolo palestinese. Quindi caduta dell'URSS, caduta del blocco sovietico, che ebbe ripercussioni ovviamente in tutto il mondo e vide appunto nascere quella comunità degli stati indipendenti, che era solo appunto un pallido esempio di ciò che era precedentemente l'Unione Sovietica, egemonizzato da una Russia che però non che diciamo era messa in ginocchio dalle ristrettezze economiche, appunto dalla caduta del suo sistema economico e via dicendo. E quindi questo isolò a livello diplomatico i palestinesi in maniera definitiva. Ma ci sono anche altri due avvenimenti a livello regionale che crearono un isolamento del popolo palestinese. Il primo di questi fu la pace firmata nel settembre 78 a Camp David tra l'Egitto e l'entità sionista. Una pace che pose fine allo stato di guerra che durava ormai da 10 anni, siglata dal presidente egiziano Anwar Sadat, che vide appunto l'Egitto rientrare nei ranghi delle potenze occidentali. Infatti proprio in quel periodo nasce il proficuo invio di aiuti militari da parte degli Stati Uniti a quello che è il più grande paese arabo, il più importante paese arabo, invio che dura a tutt'oggi, malgrado vi siano stati a livello del congresso statunitense dei dubbi se continuare o meno a inviare questi aiuti anche dopo il golpe dello scorso luglio. E quindi l'Egitto abbandona la causa palestinese, entra in pace con l'entità sionista, anche ottenendo appunto gratifiche territoriali, perché ricordiamoci che con la guerra del 67 l'esercito sionista aveva occupato tutta la penisola del Sinai, che venne la pace del 78 venne gradualmente liberato fino a arrivare a oggi, che appunto è sotto totale sovranità egiziana, la quasi totale sovranità egiziana. E poi ci furono la guerra in Medio Oriente, la guerra contro l'Iraq di Saddam Hussein dopo, in seguito all'invasione del Kuwait, altro esponente arabo che all'epoca ha sostenuto l'OLP e che aveva fatto anche da base di arrivo per varie operazioni della resistenza palestinese, ma non solo, ma anche di tutto quel network internazionale di compagni come la RAF, l'Armata Rossa Giapponese e l'IRA e via dicendo, interloquivano e che facevano operazioni insieme al Fronte Popolare per la liberazione della Palestina. L'ultimo elemento è poi la crisi finanziaria che tutti questi sommovimenti diplomatici avevano provocato, e anche il graduale distacco dei paesi del Golfo che cominciarono a preferire altri interlocutori palestinesi, che quindi cominciarono a inviare sempre meno denaro all'OLP, che quindi entra anche in una crisi finanziaria e che quindi si trova si trova in parte anche costretta a capitolare. Infatti noi pensiamo che questi accordi di Oslo siano una capitolazione. Mentre a livello di popolo palestinese, ricordiamoci che si veniva dalla provante esperienza della prima intifada, che ha lasciato, che ha portato a migliaia di incarcerazioni, aveva portato a molti morti e a manifestazioni, sia per le manifestazioni sia in seguito con le operazioni militari che l'entità sionista portava avanti per schiacciare queste manifestazioni. Dall'altra parte invece Israele, la cosiddetta Israele, si ritrova invece avvantaggiata sul piano diplomatico, perché la caduta dell'URSS porta all'assurgere degli Stati Uniti come potenza mondiale, come unica potenza mondiale. Finisce la guerra fredda e i due blocchi, e quindi si ritrova con l'alleato con l'asso in più nella manica, insomma. L'alleato che gioca a poker con una mano con tre carte in più degli altri. E dall'altra, proprio il crollo dell'URSS aveva portato a leve fresche di immigrazione all'interno dell'entità sionista. Infatti tutti i vari immigrati russi che o per riscoprire le proprie radici ebraiche o semplicemente per scappare alla povertà che attanagliava il loro paese, emigrano in Israele, e che quindi vanno a formare a un grosso esercito industriale di riserva, come appunto manodopera non qualificata, ma anche tutte le varie eccellenze che erano state formate nei politecnici dell'Unione Sovietica, eccetera, eccetera, vanno in Israele con il loro carico culturale e via dicendo. E quindi si ha... Questo un po' è il contesto su cui si muove che portano un po' agli accordi di Oslo. Ricordiamoci poi che al suo interno l'OLP ormai era egemonizzata da Al-Fatah. Al-Fatah in generale, ma Arafat e il suo gruppo di potere in particolare, ormai detenevano detenevano il controllo dell'OLP, lo hanno sempre detenuto, ma in quel periodo in maniera schiacciante, anche perché le organizzazioni di sinistra periodicamente entravano ed uscivano dall'OLP per formare il cosiddetto fronte del rifiuto. Quindi si parla di un movimento palestinese che era già spaccato e che con gli accordi di Oslo va a spaccarsi ulteriormente. Va a spaccarsi ulteriormente perché ovviamente non tutte le organizzazioni erano d'accordo con queste capitolazioni, che prevedevano di fatto la fine della lotta armata e la rinuncia alla Palestina. E dall'altra parte, senza contropartite da parte di Israele per terminare la colonizzazione che era iniziata nel 67, la colonizzazione della West Bank e della striscia di Gaza, e che quindi non erano state digerite da tutte le organizzazioni palestinesi, come ad esempio le organizzazioni di sinistra, ma già da prima, già fuori dall'OLP, c'erano i neonati movimenti islamisti, come possono essere Hamas o il Jihad Islamico. E quindi i palestinesi arrivano spaccati, anche se poi, ad esempio, le organizzazioni di sinistra, come il Fronte Popolare, il Fronte Democratico, anche se rifiutarono gli accordi di Oslo, di fatto andarono implicitamente a legittimarli presentandosi alle varie elezioni delle istituzioni che poi con Oslo sono nate. E quindi si arriva così a questi accordi che portano di fatto Israele a concedere una parvenza di Stato, uno stato con Israele a concedere e la leadership palestinese ad accettare una parvenza di stato, quindi uno stato formale con tutti i vari simboli statali, il logo, il ministero, il cambio di nome in autorità nazionale palestinese, mentre l'organizzazione per la liberazione della Palestina andava di fatto pian piano a morire. Ma a questo potere statale di fatto aveva i poteri di una municipalità, perché si andò a spaccare la West Bank in tre parti, spaccatura che esiste tutt'oggi, una a totale controllo civile e militare da parte dell'occupazione, una parte a controllo militare da parte dell'occupazione e per quanto riguarda l'amministrazione civile, era in mano alla cosiddetta autorità nazionale, e infine una piccola parte a totale controllo civile e tra virgolette militare palestinese, ma che poi si rivela anche là una forma, perché gli israeliani sono sempre entrati quando hanno voluto in queste aree a totale sovranità tra virgolette palestinese. E quindi di fatto ci si ritrova con un Yasser Arafat, presidente dell'autorità nazionale palestinese, ma che di fatto era solo il sindaco di Ramallah, di Qalqilia, di Jenin, di Hebron nemmeno tanto. E quindi noi facciamo un altro sacchetto musicale e torniamo fra qualche minuto. Questi sono i Revolution Makers, che cantano con Imam Migames, che cantano What's Going On, cosa sta succedendo. اتمنى اني احكي لما حكيت ظلمت اخوي دعست وانا بمشي ما كانش في بالي ادعس بس كان نزل منيح كل يوم بتعاطى مع اني مجرمي حكي منيح عودنا نخترع الصبر فنقلب الخرابه جنه نشوف الحياه اجمل حياه مع انها مزله بنعيش شوشره بتبعثنا على القبر بدون فيزا نحكي مش مهم المهم بدون فضيحه نعجم مأساتنا بالكاميرات ما نستحي نفتح المحتجع اساس بنساعد ونفتح كم مره بنبرم ونحاضر كم مرة بنخلص ما نناقش كم مرة بنهتف وما نحاسب كم مرة نخف ونطنش تسألني كيف نحل كيف نبلش حاسب روحك قديش غالي عشان ما تطنش حط نفسك في مخيم عشان تعرف تبلش خلينا نحس في كرامة بعض ما نسلمش نتمنى حياة النظام يا فخامة أولاد البلد بصرعوا في الخروج ما تبدنا ننهي هاي الدراما ابن البلد بفضل الإقامة في خارج البلد ليبني المستقبل بدل ذل وإهانة إيش النظام يا فخامة الشعب ناسي احتلال الوطن همه فكر الكهرباء ما تجايا الشعب فكره ملهي في روتينه اليومي شغل كهرب صلاب بنزل معطوف العادة بشكل يومي مش عاجبه فني لأني بوصف واقع وأنا بغني بصورة اختلاف لمستمع وأنا مؤدي فني في اعتقاده بانتقاد باسلوب نظام محرم وهو منزل باسم الملك الفخامه المعظم سيد الفخامه ركز حيل للشعب في تغيير دين توحيد وطن بدناش حدا يساعد حل المشاكل للاخوه بسيط بس فين مكبره في دخول ضغط ثالث عامل مضطر حد حيعبره نتمنى حياه ما تكونش الارخص فيها ده فكر وين الحقيقة مش شايف منك معمي توقفش قدامي ارجع خطوة خليك حدي وين البساطة ليش راسك بتعلي ما احنا غرقانين بنفس المشكلة ليش تهددني ما انا اخوك وبالدياني ليش تستنى اوقع ليش تنزرع الخيانة ليش نحفر لبعض وعلينا يتفرجوا ليش نفش غليلهم وفينا يتشمتوا لازم هالصفحة تنقلب عشان ولادنا ما تجرب غلطة دفع تمنها شع مسكين زلين مش عارفين نعدي مطر لازم ننضب ونستحي عحالنا بدل ما ننشر غسلنا والعالم اقبالنا يا اخوي بترجاك باسم الوطن واللي راح بصلي للوحدة وبدعي للي ضحوا لازم نوقف محلنا لنقدر نكمل أنا وإنت بيدينا مع بعض بنعلم ما يكونش الأرخص فيها دمنا تتحدى اللي فاتنا E ritorniamo in onda con Radio Cufia. Abbiamo sentito What's Going On dei Revolution Makers, gruppo rap che canta dalla Striscia di Gaza. E torniamo appunto a parlare degli accordi di Oslo. Diciamo che gli accordi di Oslo appunto hanno visto un cambiamento non dell'entità sionista ma dell'OLP che va così a cambiare anche i termini del conflitto che c'era stato dal 48 fino a anche prima del 48 fino a appunto al 93. Innanzitutto diciamo che questi accordi non hanno portato alla fine dell'occupazione, neanche lontanamente, tant'è che ancora oggi parliamo di liberazione della Palestina. Al contrario, la colonizzazione nel frattempo è triplicata. Nel 1990 si contavano tra West Bank e Gaza 240.000 coloni, che nel 2012 sono diventati 656.000 soltanto nella West Bank. Nel frattempo la Striscia di Gaza è stata liberata dalle colonie, quelli che stavano là sono stati spostati in West Bank e quindi è andato... Quindi di fatto il furto della terra palestinese non è finito, non è terminato, anzi è proseguito ed è aumentato, cioè è stato un aumento del 182%. E ciò ci fa capire come quanto sia veritiero ciò che abbiamo detto prima, cioè che quell'autorità nazionale palestinese era una parvenza di Stato, cioè aveva i blasoni, cioè aveva i loghi, cioè aveva i ministri. Al giorno d'oggi l'autorità nazionale palestinese ha più ministri del governo cinese, abbiamo detto tutto, però appunto mancava di un potere reale e soprattutto aveva i poteri più che altro di una municipalità. È cambiato anche il modo di interpretare il conflitto. Innanzitutto già il fatto che noi parliamo di conflitto è una fino al 93 si parlava di lotta di liberazione o di lotta contro il colonialismo sionista o del colonialismo europeo ebraico, come vogliamo chiamarlo, ma il termine conflitto, che dalla parte sua dovrebbe riguardare unicamente quei conflitti che vedono due entità statali o comunque due entità di pari grado, come può essere la guerra tra Iraq e Iran negli anni Ottanta, o come si può definire la Seconda Guerra Mondiale. E quindi già questo termine conflitto fa pensare a due parti più o meno equivalenti, e soprattutto che il conflitto si può risolvere con la pace, altra parola che entra così nel lessico politico palestinese. Pace che però non si capisce su quali basi dovrebbe essere costruita, visto che le rivendicazioni di quello del movimento di liberazione sono sempre state il ritorno dei profughi e la possibilità di autodeterminarsi per il popolo palestinese in quella che era la Palestina mandataria britannica, che andava dal fiume Giordano fino al Mar Mediterraneo. Oggi invece il concetto di pace è stato spostato anche là su termini, potremmo dire, statali, e quindi due stati, quando si fanno la guerra, parlano dei confini, e quindi è tutto su tutto questo, su questo unico cardine sono incentrate le cosiddette negoziazioni tra autorità nazionale ed entità sionista negli ultimi 20 anni. Quindi il ritorno di Israele ai confini prima del 67, e la cancellazione delle colonie, riprendere o meno Gerusalemme Est, l'autorità nazionale ha già detto che Gerusalemme Est non verrà ripresa, ma tutto questo non pone una soluzione al problema palestinese, o meglio alla lotta di liberazione palestinese, perché si va a rinunciare ai territori, quelli sono stati occupati nel 1948, quella che oggi chiamiamo Israele, quindi Tel Aviv, Haifa, Acca, Safad, il Negev, che è un posto dove attualmente vivono qualcosa come 1 milione di palestinesi, che sono il 20% circa della popolazione israeliana, e soprattutto anche appunto la rinuncia a Gerusalemme. E questi non sono termini, come abbiamo visto, non è una materia lessicale che di sottigliezze appunto lessicali o di ermeneutica, sono fatti sostanziali, perché appunto vanno a automaticamente ad escludere 5 milioni di palestinesi, che sono quelli che vivono in diaspora nei campi profughi in Libano, in Siria, in Egitto e in Giordania. Vanno a escludere 6 milioni di palestinesi, appunto, se contiamo quel milione che vive dentro Israele, e va a escludere quegli altri milioni che vivono in West Bank, nella striscia di Gaza, ma che sono originari appunto dei territori del 48. E quindi possiamo dire che gli accordi di Oslo hanno avuto tre effetti principali. Innanzitutto abbiamo visto che Israele ha continuato le sue politiche coloniali, però con due vantaggi: che il costo finanziario dell'occupazione è stato trasferito ad altri, all'Europa, agli Stati Uniti, ai paesi arabi, che hanno cominciato a far affluire ingenti finanziamenti all'autorità nazionale palestinese per gestire questo processo, creando poi anche delle distorsioni economiche che andremo ad analizzare dopo o nella prossima puntata magari, e poi anche riuscita a appaltare parte della sicurezza all'autorità palestinese con i trattati di coordinamento sulla sicurezza. Di fatto la maggior parte dei dei palestinesi arrestati da Israele è stata già arrestata dalla polizia dell'ANP. In passato le forze di sicurezza sono state molto accanite contro chi osteggiava gli accordi di Oslo, quindi con militanti prevalentemente di Hamas e del Jihad Islamico, che sono le componenti più importanti, ma anche del Fronte Popolare e via dicendo. Altro fattore è stato che altra conseguenza è stato l'indebolimento del movimento politico palestinese, perché ci ha provocato delle grosse spaccature, perché parte della dirigenza dell'ANP crede ancora negli accordi di Oslo, anche più o meno sinceramente, mentre c'è chi rigetta questi accordi di Oslo e via dicendo. E poi c'è stato l'avvio di un processo di rimozione, di revisionismo di quella che è stata la storia palestinese, la geografia palestinese e dei diritti collettivi palestinesi che abbiamo visto prima e che accenneremo meglio. E per andare al primo punto, abbiamo visto che sebbene Oslo prevedesse subito dei doveri da parte dei palestinesi, non ha mai previsto in maniera chiara e definita come dovesse finire l'occupazione. E di fatto, appunto, è continuata l'occupazione militare in West Bank. Nella striscia di Gaza c'è stato un ritiro unilaterale, ma che poi si è rivelato anche da una parte una vittoria di Pirro, e soprattutto non è stato preso in considerazione il diritto al ritorno dei palestinesi. E occupazione della West Bank ha significato il rafforzamento di tutto il sistema di apartheid che era iniziato col 67, ma che ha avuto un'enorme spinta dopo Oslo. E quindi si è rafforzato tutto il sistema dei checkpoint, tutti i controlli di uscita dalla West Bank e da Gaza. Di fatto chi abita a Gaza non potrà nemmeno immaginare di poter andare in West Bank e via dicendo. Controllo delle persone e delle merci, controllo dell'economia palestinese, il controllo delle risorse naturali. Basti pensare all'acqua, l'abbiamo detto tante volte dai microfoni di questa radio, o anche ad esempio all'occupazione della Valle del Giordano, che è è il punto in cui sono i terreni più fertili di tutta la Palestina. Il controllo sulle attività economiche, la frammentazione della West Bank in quelle tre aree, l'area A, area B e area C che abbiamo descritto prima, che di fatto va a creare dei Bantustan simili a quelli che c'erano in Sudafrica durante l'apartheid, e tutta una serie appunto di restrizioni e di attività che è legittimo che ci siano da parte di una potenza occupante. Ognuno ha il suo ruolo, l'occupante fa l'occupante. Il problema è che la leadership palestinese non ha legittimato in parte questo sistema di apartheid, cosa che non era mai successa né in Sudafrica, né ad esempio nella lotta di liberazione algerina e via dicendo. E poi abbiamo visto appunto che vi è stato un processo di spaccatura all'interno del movimento politico palestinese. C'era già da prima degli accordi di Oslo, perché la nascita di Hamas è datata al 1987, mentre già si poneva in antitesi all'OLP. Questo processo è stato rafforzato anche appunto dalle politiche repressive che ha portato avanti l'ANP. Ricordiamo, abbiamo nominato spesso dai microfoni di questa radio, Mohammed Dahlan, che era un politico palestinese legato al movimento di Fatah, che era che era quello a capo delle il soggetto a capo delle forze di sicurezza preventive, e che è stato colui che ha aumentato l'odio degli abitanti della Palestina, ma soprattutto della striscia di Gaza, contro quell'istituto che è l'autorità nazionale palestinese, perché si è parlato di un'attività fatta di arresti arbitrari, torture, di morti sotto tortura. E poi c'è il problema della rimozione della storia, della geografia, della cultura palestinese. E appunto abbiamo visto la riduzione della Palestina alla West Bank e a Gaza, in totale sono il 22% della Palestina storica, mentre tutto ciò che è Gerusalemme e Israele non viene più considerato come un obiettivo di rivendicazione da parte del popolo. Si rimuove la storia palestinese, perché si rimuove tutto ciò che avviene prima del 67, perché ricordiamoci che gli accordi di Oslo vedono uno Stato palestinese, vorrebbero creare uno Stato palestinese nei confini del 67, cioè Gaza e Cisgiordania, quelli prima della guerra appunto del 67, e quindi va a legittimare la storia palestinese, va a legittimare la resistenza palestinese solo dopo quella data, mentre la lotta si cancella così la lotta anticoloniale che è stata fatta contro ad esempio il mandato britannico all'inizio del XX secolo, dopo la spartizione dell'impero ottomano. Va a rimuovere la lotta per l'autonomia dal governo ottomano, che c'è stata, e c'è stata in maniera molto forte, e poi vanno a rimuovere quel grande buco nero innominabile che è la Nakba, che è la catastrofe del popolo palestinese, cioè quando è stato ufficializzato l'espulsione dei palestinesi nel 1948 dalle loro terre. E questi elementi, che sono estremamente importanti nella storia palestinese, vengono totalmente cancellate. Viene anche cambiato proprio il concetto di palestinese, perché il palestinese diventa l'abitante della West Bank e della striscia di Gaza, e non vengono così esclusi tutti quegli palestinesi che vivono dentro Israele, i profughi che stanno in Giordania, in Libano, in Siria, o che vivono in diaspora, anche non necessariamente nei campi profughi. E questi palestinesi hanno il diritto, sancito anche dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, a tornare alla loro terra, ma anche se non fosse sancito dalle Nazioni Unite, a noi ce ne importa poco, ci interessano i diritti dei popoli e non i diritti dei legulei. E quindi questi abitanti, che sono stati privati delle loro abitazioni nel 48, hanno diritto di poter tornare nei loro villaggi o di essere compensati nel caso non vogliano rientrarci. Si capisce che Oslo cambia notevolmente la figura del palestinese, dando la possibilità, era una delle ipotesi ventilate negli accordi, di far tornare i profughi nella West Bank e a Gaza, quando le loro case non erano né nella West Bank né a Gaza, ma erano a Safed, Haifa e via dicendo. E poi c'è quello che il sociologo palestinese Jamil Hilal va a definire il marketing dei miti e delle illusioni. Illusioni come ad esempio il fatto che la soluzione dei due stati è vitale, costruire istituzioni statali e un'economia vitale è fattibile sotto l'occupazione, scommettere su una strategia di negoziati bilaterali e via dicendo. Quindi tutto quella narrativa che è nata e che anche grossa parte degli attivisti solidali con la Palestina sostiene, di illusioni che non hanno né capo né coda, cioè che al senno di poi non hanno né capo né coda, ma non ce l'avevano neanche prima, perché parlare di una soluzione di due popoli e due stati significava ammettere in principio una soluzione razzista, perché significava che la nascita di, cioè l'esistenza di uno stato per gli ebrei, dove chi non è ebreo è cittadino di seconda classe, e uno stato per i palestinesi, che al loro interno vedono ebrei, cristiani, musulmani, ma che se non sei palestinese sei un cittadino di serie B. E oltretutto, appunto, c'è quel problema che abbiamo detto prima dei profughi. Noi siamo contro gli stati nazionali, noi siamo per la libertà di tutte e tutti di vivere dove gli pare e piace, a prescindere dai confini creati dagli sfruttatori. Andiamo a fare un'altra pausa musicale, rilassiamo le vostre orecchie e il nostro gargarosso e ci sentiamo, passiamo alla musica folk, ci sentiamo Wayna Ramallah. We'll be right back. E ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e analisi dalla Palestina occupata e sulla Palestina occupata. Abbiamo fatto questa panoramica un po' random, dobbiamo dire, degli accordi di Oslo, su come si sono conformati, come sono nati, che effetti hanno avuto. Ovviamente ne parleremo meglio, ma un ultimo aspetto è quello da analizzare, è quello delle ricadute economiche sulla Palestina. Di fatto gli accordi di Oslo hanno hanno portato l'interessamento delle varie potenze internazionali ad oliare questo cosiddetto processo di pace, che abbiamo visto non era né un processo né tantomeno di pace, se anche fosse stata possibile una pace in quello che è un conflitto anticoloniale. E quindi con il 93 si va a cambiare in maniera molto radicale l'economia palestinese. Con gli accordi di Oslo, infatti, vengono firmati gli accordi di Parigi, che è un protocollo a questi accordi di Oslo, che vanno a creare proprio un'infrastruttura di cooperazione o comunque di relazione economica tra l'occupato e l'occupante. Il primo passo è stato appunto quello di creare un'unione doganale tra Palestina e la cosiddetta Israele, che di fatto ha reso i palestinesi dipendenti dalle scelte di politica economica della controparte molto più forte, che è appunto Israele. Quindi la possibilità, un esempio fra i tanti, il tasso di la percentuale dell'imposta sul valore aggiunto dell'IVA deve essere tra Israele e Palestina, può avere uno spread, un differenziale massimo, mi pare, del 3% o del 2%. Questo significa che se Israele, per motivi di bilancio, deve aumentare di un punto percentuale la propria IVA, l'autorità palestinese deve aumentare di un altro 1% la propria IVA. Questo contro magari le necessità economiche del sistema economico palestinese, ma anche contro la possibilità di spesa e di acquisto che hanno i palestinesi, che, ricordiamoci, subiscono un divario economico rispetto all'occupante estremamente largo, e che quindi un 1% che magari può indebolire la classe media israeliana nei territori sotto controllo dell'autorità palestinese può provocare una vera e propria catastrofe sociale, tant'è che l'anno scorso vi furono grosse manifestazioni contro l'austerity. E poi vi sono una serie di capitolati, potremmo dire, ripigliando un termine dalla storia dell'impero ottomano, veri e propri capitolati, come ad esempio il fatto che le tasse vengono raccolte da Israele, che poi le versa all'autorità palestinese, e ciò significa fondamentalmente una ricattabilità di quest'ultima nei confronti dell'occupante, come si è visto quando Abbas ha fatto, contro la volontà israeliana, andato a chiedere il riconoscimento all'ONU dello Stato di Palestina. Ottenuto il riconoscimento, Israele ha detto: ok, noi ti dobbiamo versare tot milioni di euro, di dollari, per le tasse, non te le versiamo e vediamo se continui con il tuo progetto. E questo per quanto riguarda l'infrastruttura economica, che poi è stata anche oliata con il cosiddetto progetto di investimento nella pace, che è non è un vero e proprio progetto organico, è, diciamo, una serie di iniziative dei vari paesi occidentali, ma anche degli stati arabi, che vanno a finanziare questo processo di pace e la costruzione, il cosiddetto state building, la costruzione di istituzioni statali dell'autorità palestinese. Cosa significa in soldoni? Significa che dal 93 a oggi in Palestina sono affluiti 23 miliardi di dollari, il che ha reso la Palestina il più grande ricettore di aiuti non militari del mondo e il terzo in rapporto al proprio PIL. Questi 23 miliardi di dollari che vengono dai governi occidentali, ricordiamo, sono suscettibili anche quelli di ricatto politico. Quando vinse Hamas le elezioni, le potenze occidentali hanno detto: sì, va bene, avete avuto delle elezioni democratiche, abbiamo riconosciuto, è stato riconosciuto da tutti e via dicendo, però avete votato i cattivi, tra virgolette, e quindi chiudiamo i rubinetti. E chiudere i rubinetti significa che l'economia palestinese, che è da, appunto, con gli accordi di Oslo è diventata dipendente dal terziario, ma non dal terziario dei servizi, dal terziario delle ONG, le organizzazioni non governative che vanno a monitorare il processo di pace o che fanno altre iniziative, appunto, di carattere umanitario, buttano per strada chiudono i rubinetti, che non fanno arrivare i finanziamenti a queste ONG, che provocano appunto licenziamenti in massa nella popolazione palestinese, che ricordiamoci è una delle più istruite del mondo arabo, col più alto tasso di laureati che vanno a lavorare in queste organizzazioni cosiddette non governative. Anche quando non va a finanziare queste ONG, questi aiuti vanno a finanziare delle imprese più o meno industriali o delle attività economiche che rispondono comunque a un canone neoliberista, e quindi anche là e ciò è stato esplicativo, è stato il governo di Salam Fayyad, che ha governato dal 2007 fino allo scorso alla scorsa primavera, che appunto ha smantellato tutto, da una parte sia tutto il sistema sociale che più o meno era retto dall'OLP, ma è andato anche a smontare le tradizionali attività industriali ed agricole palestinesi, che già erano minate dall'occupazione, perché il furto delle terre va a distruggere l'agricoltura palestinese a vantaggio dell'agricoltura dei coloni, l'attività industriale è già minacciata dall'occupazione, perché ad esempio la ditta di birra a Taibi non può esportare perché i fusti vengono lasciati per giorni e giorni ai checkpoint. E questo è andato a peggiorare. Un dato tra tutti: nel 94 l'agricoltura era al 13,3% del PIL palestinese ed è diventato nel 2011 il 5,9%, e nel bilancio dell'autorità palestinese solo l'1% va a sostegno dell'agricoltura. Di questo 1%, l'85% va nelle tasche dei funzionari del Ministero dell'Agricoltura, e quindi di fatto c'è stato uno smantellamento della capacità produttiva palestinese, e non solo appunto per l'occupazione, ma anche per le scelte dei governanti e dei cosiddetti governanti, che ha portato a una situazione critica. Di fatto il 50% dei palestinesi è sotto la soglia di povertà, il 38% nella West Bank, il 70% nella striscia di Gaza, i tassi di disoccupazione sono altissimi, soprattutto tra la popolazione giovanile, e il World Food Program, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della sicurezza alimentare, ha notato che più del 50% delle famiglie palestinesi è a rischio denutrizione. E questo, insieme alla politica delle ONG, che abbiamo visto fanno la politica, portano avanti una politica delle agende occidentali, politica tesa alla liberazione del popolo palestinese ha ridotto, potremmo dire senza esagerazione, i palestinesi a un popolo di mendicanti quasi, che devono andare a raccimolare il progetto internazionale della cooperazione, devono fondare le ONG per monitorare un processo di pace che non esiste, o magari andare a monitorare quelle che sono le violazioni israeliane nei confronti dei palestinesi. Ma quando poi si ritrovano a dover impugnare le armi o comunque a mobilitarsi, perché comunque grandi sono le mobilitazioni di vario tipo, violente e non violente, contro l'occupazione, e allora là casca la mannaia del ricatto occidentale, che del neocolonialismo occidentale, che va così a impedire un'emancipazione del popolo palestinese e appunto la possibilità di una liberazione e di ottenere giustizia per i palestinesi, per i profughi e per i palestinesi che vivono all'interno dell'entità sionista. Questo più o meno è tutto per quanto riguarda gli accordi di Oslo. Io ora lancerei un altro stacchetto musicale e per ripartire poi con il giornale radio. Ci andiamo a sentire una canzone di Mahmoud Assaf, il cantante palestinese, l'idolo palestinese che ha vinto la scorsa edizione di Arab Idol, che canta Halli al-Kufiya, cioè sventola la tua kefia. علي الكوفية علي ولو لح فيها وغني عتابة وميجانة وسامر فيها علي الكوفية علي ولو E Palestina, i diplomatici palestinesi interrompono i negoziati. Mercoledì 13 il presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas ha dichiarato che i negoziatori dell'OLP hanno rassegnato interrompere i colloqui diretti con Tel Aviv, aggiungendo che tenterà di convincerli a ritornare al tavolo dei negoziati o che formerà un nuovo gruppo di diplomatici. I colloqui sono iniziati lo scorso luglio dopo 3 anni di stallo. Malgrado ciò, prosegue l'opera di colonizzazione nella West Bank occupata, così come il rifiuto di riconoscere i diritti dei palestinesi all'autodeterminazione. E passiamo ad Al-Quds, Gerusalemme, dove le forze d'occupazione assaltano la commemorazione per Arafat. Lunedì 11 i militari hanno assaltato il Silwan Club per evitare che si commemorasse il 9° anniversario della morte di Yasser Arafat. Israele vuole dimostrare di avere il controllo di Al-Quds, ma noi palestinesi respingiamo questa ipotesi. Al-Quds è una città araba ed islamica e siamo riusciti a commemorare l'anniversario nella strada principale di Silwan, di fronte alle forze israeliane, ha dichiarato Adnan Gait, segretario generale di Fatah nella città di Silwan. Arafat è morto nel novembre 2004 in Francia all'età di 75 anni ed in circostanze misteriose. La scorsa settimana un gruppo di scienziati svizzeri ha rivelato i dati delle analisi compiute sui resti del politico palestinese, che mostrano tracce inaspettatamente alte di polonio-210, una sostanza altamente radioattiva. E passiamo alla West Bank, dove la polizia palestinese tortura i giornalisti. Radio Betlemme 2000 ha annunciato che il suo direttore, George Kanawati, è stato picchiato e torturato mentre era agli arresti. Kanawati è stato arrestato domenica scorsa con le accuse di calunnia ed oltraggio a pubblico ufficiale, dopo una violenta perquisizione alla propria abitazione, durante la quale è rimasta ferita anche sua madre. I corrispondenti di Radio Betlemme 2000, presenti all'udienza del giorno successivo, hanno dichiarato che presentava evidenti segni di percosse e di tortura. Kanawati conduceva un programma molto popolare che vedeva la presenza in studio di cittadini e politici, ed in cui primi potevano porre le proprie domande e spiegare i propri problemi a questi. Tutti i membri delle radio repressi, noi portiamo la nostra solidarietà. E passiamo alla striscia di Gaza, dove l'arca salperà. Mahfouz, membro dell'Associazione dei Pescatori, ha dichiarato che l'arca di Gaza salperà per l'Europa la prossima primavera. L'arca sarà il primo vascello a trasportare i prodotti gazawi all'estero e a sviluppare l'arte nautica palestinese, due settori messi in crisi dal blocco navale imposto dalla marina sionista. Oltre all'equipaggio e beni d'esportazione, saranno presenti a bordo degli attivisti internazionali e, se avranno successo, sarà il primo caso di esportazione via mare dalla firma degli accordi di Oslo del 1994. E passiamo all'entità sionista, dove prosegue la pulizia. Domenica scorsa il Consiglio dei Ministri sionisti ha approvato il progetto di costruzione di due nuove comunità ebraiche nel deserto del Nakab, meglio conosciuto come Negev. Le colonie andrebbero costruite sulle macerie del villaggio beduino di Hum al-Iran, i cui abitanti dovrebbero essere deportati in un sito alternativo. Humm al-Iran non è il primo caso di pulizia etnica compiuto nell'area, che è al centro di un piano di deportazione chiamato Prawer Begin, che prevede il trasferimento forzato di circa 70.000 beduini e contro cui si mobiliteranno i palestinesi nella diaspora, nella West Bank e nella Gaza occupata e dentro l'entità sionista il prossimo 30 novembre. I detenuti del carcere di Megiddo hanno avviato delle proteste dopo aver saputo della morte del loro compagno Hassan Turabi, avvenuta il 5 novembre scorso. L'autorità carceraria ha reagito inviando più di 100 membri armati delle forze speciali, che hanno risposto al lancio delle scarpe con l'uso dei lacrimogeni e dei cani. Numerosi feriti tra i prigionieri picchiati con i calci dei fucili. In seguito alla repressione della protesta, tutti i detenuti sono stati perquisiti e gli è stato negato l'utilizzo delle strumentazioni elettriche del negozio del carcere e di poter ricevere visite dai parenti. Inoltre, 8 prigionieri sono stati trasferiti in isolamento, dove sono stati vittime di pestaggi. E passiamo alle iniziative a Roma, dove c'è l'assemblea pubblica dalla parte del popolo di Palestina. Il prossimo 2 dicembre il primo ministro sionista Netanyahu incontrerà il presidente del Consiglio Letta a Torino. In preparazione della manifestazione nazionale che si svolgerà il 30 novembre, la rete romana di un'assemblea pubblica in cui si parla del diritto al ritorno e il diritto alla resistenza e si lancerà la campagna di boicottaggio di Israele. Seguirà una cena di autofinanziamento per il pullman per la manifestazione di Torino. L'assemblea sarà il 19 novembre alle ore 18 presso il cinema Volturno occupato, a via Volturno 37 a Roma. Per maggiori informazioni sui pullman per la manifestazione, contattare il coordinamento Netanyahu non gradito all'indirizzo email torino30novembre@gmail.com. Il 30 a numeri. E sono le 20 e 50 minuti primi, si conclude così questa puntata di Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento analisi dalla Palestina occupata e sulla Palestina occupata. Noi vogliamo ricordarvi, prima di chiudere, i contatti della radio, che sono www.radiodefault.it, il nostro contatto Skype per intervenire, fare domande in diretta e via dicendo, che è radio.default, oppure contattare le nostre pagine Facebook, che è Radio Default. Chi conduce questa trasmissione è l'Assemblea di Solidarietà col Popolo Palestinese dei Castelli Romani, che è dotata di un proprio sito nonché di pagina Facebook in cui potete trovare, oltre alle vecchie puntate di Radio Cufia, anche numerose traduzioni di articoli, di analisi e di notizie e di aggiornamenti dalla Palestina occupata e sulla Palestina occupata. Ci potete trovare su castelliperlapalestina.noblogs.org oppure sulla pagina Facebook Castelli per la Palestina, tutto attaccato. Sono ora le 20 e 52 minuti primi, noi vi salutiamo, vi lasciamo alla programmazione della radio che non sappiamo bene cosa preveda, nel salutarvi vi auguriamo buona libertà a tutti e a tutti, sia in Palestina che in Italia che nei Castelli Romani, e un abbraccio speciale a Gianluca e ad Adriano. بتعصب الوطن من أجل دمك أخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها أخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي